Sostanzialmente il salone ha tenuto e questo è un gran dato positivo, perché nel 2010, nel quale le nostre aziende in complesso avevano perso ancora sul 2009 all'incirca il 20%, i primi sei mesi di un 2011 dove in effetti sembrava che la discesa si fosse arrestata con qualche punto di crescita, e poi una primavera, un'estate 2011 di nuovo difficile. Pensiamo che nel 2010 il mercato interno è calato del 33%, il mercato in esportazione è salito del 9%, quindi una forbice che si apre sempre più. Meno 33% il mercato nazionale? Meno 33%, esattamente così, è più 9% il mercato in esportazione. Tra l'altro però l'export è quasi il 70% di tutta la produzione nautica italiana, giusto? Sì, è qualcosa di più, un 72-73% di quei 3 miliardi e 4 che lei ricordava vanno oggi in esportazione, e questa è una grandissima sicuramente soddisfazione per il nostro comparto, che con questi numeri si è confermato a essere il quinto comparto in esportazione del Made in Italy. L'export delle nostre barche oggi sta andando soprattutto verso i mercati emergenti che però sono mercati distanti per i nostri prodotti. Parliamo del Sud America, in particolare del Brasile, parliamo della Cina, parliamo dell'India. Ecco, l'idea di portare il salone nautico di Genova in Cina nasce, immagino, da questa esigenza. Sì, nasce da questa esigenza, nasce da un esame attento che comunque abbiamo fatto. Abbiamo un'industria nautica leader nel mondo, soprattutto per la costruzione delle grandi imbarcazioni oltre i 24 metri. Abbiamo un mercato cinese della nautica che sicuramente non è ancora maturo, che è ancora da capire come impiegare il proprio tempo libero nel fare turismo nautico, che però ha un grande PIL in crescita, ha un reddito pro capite sicuramente anch'esso in crescita, quindi insomma cinesi che cominciano a essere pronti ad avvicinarsi al nostro mondo, e qui quindi un'opportunità nostra di cercare di arrivare primi. Lo strumento che abbiamo immaginato migliore per poter creare una cultura del mare, una cultura del tempo libero indirizzato al mare, anche in Cina, è proprio un grande salone nautico.